so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti. Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi piaci sempre, passo i giorni stuzzicandoti con frasi come sto invecchiando sopportandoti. Forse è proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei, cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Mi piaci quando sei indecisa tra due abiti, mi chiedi quale, ma sai già che cosa metterti. È questo modo un po' infantile di non crescere che mi fa innamorare. Sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, cosa sei? Non lo sai neanche tu cosa sei.